faccio un segnale. Andiamo al 18. 18. Sì, qua un secondo. E dicevo, come era la questione? L'hai avviato, Tim? Aspetta un attimino, scusa, dobbiamo farlo in remoto, Gianfra, o faccio io? In remoto, perché io qua non c'ho... non me lo ricordo, non ricordo se abbiamo il servizio. Perché io davo per scontato mettere il CDR Sharp e partiva, è connesso alla lucetta verde della Pimina. E quella là è l'alimentazione. E quindi cosa devo fare adesso? Vado su SDR Sharp o vuoi farlo su remoto? Ma su remoto, che te ne metto anche un altro, dai. Ok, allora entro su quello TeamViewer, eccetera, eccetera, e ciao, cosa succede? Speriamo bene. Allora, avviare soltanto, così devo mettere? Sì, avvia soltanto. Almeno quello lì sta partendo, rispetto a ieri, adesso se ne messo di nuovo con la pagina brutta. È andata? Aspetta, carica, eccolo qua. Sei pronto a scrivere? Aspetta che sto andando con l'autorizzazione. Vai. Allora, l'ID è sempre uguale, no? Ce l'hai? Sì, si conferma uguale. La password è tutto minuscolo, scrivi. Allora, alfa 3 alfa bravo papa 5 golf Charlie. Sì, se sta entrando. Non ho capito. Sono dentro. Qua l'icona. Ah, ecco qua. Aspetta che sposta su Europa. Ho comprato anche il braccio per il computer e per il monitor, così non mi sfascio il collo. L'alimentatore me son preso. Sì. Un attimino, che dire quanto è una cosa. Ma questa è la pennina che ci ho attaccato io, Gianfra? Sì, mi dice che però non la sto riconoscendo, non capisco perché. Vediamo un po'. Mi sa di. Vabbè, cosa vuole, che la faccia... Boh. Ma l'hai attaccata... collegata, sì, tutta quanta, USB, clic e cac. Sì, è attaccata, c'è la luce verde per cui è accesa, è diventata. Posso provare l'altra porta, ma funzionava perché ha attaccato altre cose qua. Vabbè, fare questo è quello nuovo, a posto di migliorarlo l'hanno peggiorato. A parte che non mi ci sta sulla schermata. Prova a cambiare porta, tolgo quella chiavetta audio esterna, gliela metto in quel posto lì a provare. Ma se sta alimentando dovrebbe, se è accesa dovrebbe essere attiva, non è così, Gianfra? Certo, dopo la data qua. Che penitenza. Ma insomma, devo sto dicendo un po' di lingua. Che avrete è questo? Vediamo se adesso cambia vero. Niente. Vediamo che assillanti che sono, mamma mia. Questo c'è per caso. Sei riuscito ad aprirla? Ma che... non la fa vedere, non riesco... cosa era? Io lo devo scaricare, ma non vedo il coso da allora. Forse ci siamo riusciti. provocare se questo lo vede, no. Non ho mai capito che, perché quando fa una cosa sono miliardi di complicazioni. Io pensavo attaccavo, tu è andato. Sì, magari. Con la chiavetta non è così, è per quello che io sono lontano, proprio se non è indispensabile. Invece così c'è Vittore, metti, attacco, vai. Fatto che dice, stiamo partendo a 32 bit, che è oramai 64. E quello ci sta veramente condizionando in maniera negativa. Comunque, adesso vediamo un po' cosa ne c'è fuori con questo. E quanto è il lungo? 55. E poi come è andata la partita? Sono a zero. Vediamo adesso cosa ci dice, che ludicità. Io che a fare il siciliano. Ah, 32 bit, meno male. Scommetto che non è neanche saldato i due jack. Sì, no, io ho preso tutto. Li ho sbucciati, sono pronti a collegare uno a quello spinotto tuo, però dopo ti faccio una domanda, così che tu. Sì. Allora, è giusto per avviso. Forse mi devo cambiare il mio PC. A te non interessa, non capito. No, capito, non interessa, no? Ti interesserebbe un portatile Toshiba, piccolo? Io ne ho uno, portatile Toshiba, perché cosa devi fare? No, probabilmente questo nuovo anno rinnovo. Completo il rinnovamento dal punto di vista tecnologico della parte informatica. Toshiba è un bel prodotto, io ce l'ho da 2013, più recente del mio è il tuo. No, questo è più vecchio, è molto più piccolo. Il mio è un 15 pollici, ce l'ho in officina, lo tengo di lì, però vuole, guarda, le vuole tutto svuotato perché è lento, tu non hai idea quanto ci prega a partire. Poi mi aveva messo un amico, quello Carpeschio, come cavolo si fa, non sono riuscito a tirarlo via. Vabbè, io ti ripeto, non ne capisco niente di computer, vuole completamente svuotato, pulito, però devo salvare dei dati importanti che ci sono degli anni in te. Guarda, che Windows c'ha? C'ha Windows 10, è stato aggiornato, cioè c'è scritto, poi mi chiede sempre quando il computer non è stato aggiornato, deve essere, ci sarà qualche aggiornamento, perché la pagina iniziale è diversa da quella che c'ho, che mi ha messo qua Luca. C'è un 64. Guarda, di lì fai prima a prendere un hard disk, scaricato su una pennina. Ok, prenderti una pennina, un nuovo hard disk del SSD e del cavallo. Cosa ha finito? Vediamo cosa succede. Incrocia le dita. Questo tu ci vuoi stare dicendo, tu è piccolino? Sì, è piccolino. Ma lo stai vendendo o che cosa vuoi fare? Ma ci sto pensando. Aspetta, continuo. E come l'hai riconosciuta? Ci sento? Lo so. L'antenna è collegata per caso? No, Prova ad andare su 8808, c'è uno spezzone, perché se no devo staccare l'altra antenna dal ricevitore, però non so se ci arrivo. Aspetta, sto cercando. Anche in radio, però non ce l'ho. Non vuol dire che non ce la fai questa notte. Non è possibile. Forse è necessario collegarla con un'altra parte. Non è quella iSpy? No, aspetta, sono fatti in su. No, ma quella è già una cosa grossa. Ah no, se c'è la RTL, questa dovrebbe essere, vediamo, sono due più. Vediamo se mi risponde. Non risponde quella stella. Ma c'è la stella. Aspettando, vediamo un po'. Anche ho visto c'era le CR9006 pure le ricevette. Sì, perché sto anche a fregare quello, sicuramente. Una cosa terribile. Allora, vediamo se è un problema di USB. Mettila, ma chiudiamo tutto un attimino. La stacchi e la... Ecco. Stacca la chiavetta e metti la suonata su USB. Il cavetto è il suo, quello che ti ho dato, giusto? Sì, sì, allora tolgo dalla posizione USB e la metto nell'altro posto. Sì. L'ho inserita. È accesa? Sì, sì, è accesa. La chiavetta è a posto, cioè è efficiente quando l'ultima volta l'hai usata. Sì, colorata ieri. E non ci possiamo neanche trovare una foto che guarda. Cioè perché qua c'è questa versione avanzata, non la trovo. Allora aspetta un po', questa è una questione di drive, è una questione di lo cerchiamo senza questo futuro. Oh, ma che vetro, posso dire. Vediamo un po' se riuscirà a installare già. Non penso fosse così complicata. Le chiavette sono strane. Allora, adesso c'hai il... Questo non funziona. Questo non si funziona. Vediamo cosa è successo. Compatibility, possiamo mandarlo qui. Hai visto, non c'è lo qui, ma dentro la mano mi dà lo qui. No, ci abbiamo un problema di compatibilità. Ma non riesce a installare i drive di partenza? Sì, sì, proprio mi sta dicendo che non è compatibile, cosa molto, molto, molto strana. Vediamo un po', perché infatti ci voleva un 64 qua. Cos'è di fatto? Questo è un po' di domanda. Comunque. Eccolo qua. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a aggiornarlo. Adesso lo sta rilevando, lo vedi? Però c'è il driver sbagliato. No, la pagina è aperta, questa è proprio la sua del coso della chiave. Anche l'antenna? No. Ti ho detto c'è un cavo attaccato al commutatore, un po' dovrebbe prendere, se no devo commutare, togliere la tranne. Prova su 8808 che tanto dovrebbe ricevere. Beh, 102 che tanto è fortissimo, il segnale è 94,2. Niente. 101,7 non c'è niente. Ma non sta partendo il programma? No, abbiamo proprio un problema serio di aspetta, devo fare un altro trucco, vedi, guarda che qua non si dà più un cubo, siamo in stato almeno un quartone, e poi non serve un cubo, questa cosa, rispetto a un ricevitore stereo, cioè il 7000, che fa tutto meglio, è tutto anche che come sensibilità diverse. Sì, assolutamente d'accordo, però lo sai cos'è? Che bello vederti la pagina con tutti i cose, i valori che entri, modifichi, fai. Naturalmente il 7000 è troppo bello, mi piace perché c'ha tutti i tastini, tocchi e fai. Appunto, infatti le cose... vediamo un po' cosa non c'è fuori da questo l'ultimo tentativo, che non si riesce proprio a farlo invertire i drive, non so dove sono tutto, no? È molto strano, adesso non sto facendo altro che riempire la cartella con la mia installazione. Infatti diverso no, per vedere se c'è un problema proprio di collesse di scarpe, sperando che non rompa le scatole e con la sua 64 bit. Io, il figlio di Capri, Claudio, me ne aveva messo due di essere di Sharp e poi mi ha detto metti questo che è migliore, un altro programma sempre di pagina, però non mi ricordo il nome perché non ho il quale computer. Vediamo cosa ci dice, ecco l'avvio, incrociamo le dita per la quarta volta. Ma tu hai trasferito il tuo coso dal tuo computer a questo? Sì, vediamo cosa ci dice. Tu vedi qualcosa, io non vedo niente. No, la pagina la vedo a 486.562, come... però è tutto spento. Non vedo lo spettro, neanche il rumore. È inserito lo spettro. Aspetta, provo questo. Ce n'è una marea di quel PSD RSA. Continua a darmi un messaggio, vedi? No, la sta riconoscendo. Porca miseria. Mi sto riportando dentro, mi dice veramente, però qua mi do compatibilità perché ADS2000 è collegato. Cos'è detto, scusa? DS2000 è collegato alla presa, quelle cose lì. Vabbè, ci piego un attimo ad attaccarlo, devo solo attaccare lo sfinotto dietro. Vediamo un po' ad attaccarlo, va. Almeno lo sfinotto. E poi vediamo il collegato. Quindi questa non c'è niente da fare, non si può collegare. No, qua guarda, fa prima a rimettere un altro sistema operativo. Perché faccio qualcosa che non va. I casi sono due, o la copia di Windows è burda, cioè è stato craccato in realtà, e quindi la licenza di Windows non è valida, o perché questa è una cosa strana veramente. Sì, fino a dirmi che ci sono incompatibilità. E questo spesso il volentieri lo fa quando siamo a livello di software non imbatte. Luca dice che è originale, Vabbè, adesso non vorrei, dovrei andare nel sito per vedere se apprendi se è originale o meno, perché se non è originale è un casino, però comunque non è fatto lì. Aspetta, l'attacco, allora la tolgo questa pennina, la sacco dalla porta. Sì, la faccio passare. Ok, aspetta, guardo qual è la CC2 o la CC1, perché se l'ho appena girato non riesco a capire quale una o l'altra. Mi guardo un attimino il manuale per vedere se è quella di destra o quella di sinistra. Guarda, è la CC2 sicuramente, te ne accorgi, perché dai piedini la CC1 ne ha di meno, la CC2 ne ha tantissimi. Ecco, la CC1 è quella che ne ha di più, aspetta, non si riesco a leggere, la CC2... aspetta, CC2, dove dobbiamo andare? La CC2 mi ha detto, e allora sul 2 dobbiamo andare. Sì, se la 1 non entra, che io ricordo io è la 2. Comunque basta guardare i pini e te ne accorgi immediatamente. Allora, e cosa è collegata alla spina? Aspetta un attimo, devo verificare la licenza. Non scappa. Ma è parlato Gianfranco, non ho sentito niente. Aspetta che sto controllando la licenza. E il cavetto rosso non lo utilizzo di quell'apparecchio, Gianfra? No, l'apparecchio è spento. Sì, l'apparecchio è spento. Collega i cosi alla scheda audio, quella la piccolina, la cinese. Quindi il bianco, quella voce bianco andrà sulle cuffie e quella azzurra andrà sul microfono. Ma se qua stiamo facendo tutto su roba volante, aspetta, proviamo il filo bianco e poi la massa, collego il bianco col bianco e poi la massa e poi l'altro spinotto dall'altra parte al blu, così. Sì, esatto. Sembra concessa una licenza. Sembra regola. Sembrerebbe di sì. Anche se questo codice è parziale. Sembra strano, comunque vabbè. Dai, vediamolo per buono. Ho quasi finito, Gianfra. Il marrone lo devo collegare, Gianfra? No, il marrone no. Nel marrone e nel rosso? No, solo quelli due. È la calza che fa massa. Allora, riepiloghiamo. Io sto collegando il bianco dove lo devo collegare. C'è scritto bianco, ingresso micro. No, il bianco va alle cuffie. Il bianco va alle cuffie della chiavetta audio. Qua c'è scritto, mi hai scritto ingresso micro bianco nel fogliettino che mi hai mandato. Ho capito. Tu devi fare quello che dico io. Il jack l'ha preparato, è tutto pronto. Collega quel filo bianco alla calza dove c'è il simbolo delle cuffie. Fatto. L'altro lo colleghi, che è azzurro il filo, all'uscita microfono, sempre della chiave. Eia, tutto a posto. Sì. Ok, ecco, c'è questa verifica da fare. Un attimino che sto facendo una verifica più accurata. Sto mettendo la macchina su. Non mi convince neanche un po'. Capo, ti hai presente il TS2000 è spento? Tu stai verificando se è ufficiale il programma? Sì, il computer è attivato definitivamente. Vabbè. Quindi hai inserito tutto quanto? Sì, tutto inserito. Però tieni presente. Come facciamo qua? Qua ci serve l'antenna, perché io l'antenna devo commutare o TS2000 o quello che sto usando adesso. Vabbè, non è importanza, sono stato attuale, vediamo un po'. Accendi. Ok, aspetta, vado alla frequenza, mi sposto, cioè che sono su quel lato, poi sto usando le... È già acceso? Io sto già vedendo qualcosa. Però non vedo qualcosa da qualche parte, Gianfranco, mi va arrivato molto furibanda. Cioè? Siccome adesso sono affiancati gli apparati, sono andato a 497-498, se no magari mi entra il segnale a fianco di ritorno. Ma dove? Allora, ti hai presente, il TS2000 è senza antenna adesso, e il commutatore è commutato sulla radio che sto parlando adesso. Io, ok, adesso ci occorre soltanto esclusivamente la ricezione. Come vedi sta ricevendo qualcosa, sta ricevendo il QRM ovviamente perché non c'è antenna. Adesso è andato a 52 così non arriva niente. Perché non deve arrivare niente? Sta andando da poco sparso. Anzi, il QRM c'è meglio, No, no, non voglio che faccia rientro il 440 sull'apparecchio, mi hai capito? Sì, ma il 440 adesso dov'è? È qua, no? Sì, ma poco fa ero a 27.200. Come schiacciavo portante a 27.175 dove siamo adesso, il display del 4 del 2000 si sollevava di Santiago 3-4. Non le fa un tubo. Non lo puoi collegare al TS2000 l'antenna, la stacchi qua e la metti là. Sì, ma se io collego il commuto l'antenna del TS2000 non posso parlare su 440. L'antenna del discone, ce l'hai? Ma scusatemi, no, io posso collegare e parlare direttamente col TS2000, possiamo farlo parlando direttamente col TS2000? Sì, però dovremmo andare sulla frequenza dove c'è il segnale, non mi sembra molto adatto, però si può fare, dai, vuol dire che ti trasmetterò io il segnale. E così siamo a cavallo, diceva Odovi. Ma a me non mi comporta niente, però se va meglio rimanere qua, io col 440 e lavoriamo in ricezione sul TS2000, si può fare? Guarda, parliamo alla stessa altura. Passa dal spegni quello lì e attacca il coso lì, 2000. Su 27.175? 27.175, sì, di qua, ti aspetto, dai, veloce. Eia. Mi stai mettendo a dieta, Ah, cacco, giusto, tu devi mangiare, io ho già mangiato qualcosa prima, pomeriggio. Ci vuole molto a commutare, è cosa lunga, staccare, attaccare, saldare. No, devo attaccare solo il microfono, guarda, un secondo e attacco il microfono, importa la frequenza. Chi sei? Sì, sei solo col TS. Sì, sono col 2000. Ok. Stai fermo così, tu non fare un tubo, non trasmettere, non... tu guarda solo. Questo è il tuo, cosa hai scritto? Funziona. Sì. Vabbè, l'altro la fa osservare. Perché c'è lo stagio. Comunque il segnale è certo che sta funzionando. In teoria se tu metti il box puoi anche trasmettere. Siamo in AM, quindi mi sento male come modulato, ma avrei spostato al microfono. No, ecco, perché ero commutato, su questa ragione. Ma hai aumentato anche il segnale, prova a parlare un attimo. 1, 2, 3, cocco dei. No, pensavo che col segnale in digitale fossi più forte, no, è uguale, lo stesso livello. No, è sempre lo stesso. Allora, sta funzionando, sei online, ti puoi ascoltare tutto quello che ti pare piace allo stato attuale. Però, come si chiama? Io l'audio l'ho sentito sul TS2000, non... vabbè, non è altoparlante questo cavolo di computer. Perché ti ho detto che se se tu trasmetti non lo senti perché ti devi mettere quello sminotto dual, non so se mi spiego, tu non lo senti nell'autoparlante per il semplice motivo che ti ho impostato la scheda audio, quella USB esterna, perché non impegnati la scheda audio trick and track, quella che c'è dentro, cioè la sua. Hai capito a grandi linee, perché così è una cosa estremamente complessa. Ma sei tu che stai scrivendo o c'è qualcuno che sta rispondendo? No, quello in gergo si chiama caratteri sporchi, a causa del fatto che c'è un'altra sensibilità. In questo caso io posso metterti lo square, guarda più in alto, qua faccio clear, vediamo se compare ancora, ecco, vedi, è una questione di QRM. Allora, il segnale tuo, io vedo due bande, una a sinistra e una a destra, e tu quale sei delle due? Ma adesso stai parlando, che adesso non sto trasmettendo un tubo. E là sono questi, nella cascata ci vedono due segnali, stretti stretti. Può essere la mia voce quando io parlo, va, vediamo un po' se adesso te esce, no, non sto parlando, non può uscire. Vediamo, ecco, guarda. Visto. Ma con questo programma possiamo vedere anche come farmi dai tuoi controlli, le modulazioni, se sei largo, se sei stretto. Ce ne sono altri dei cazzi, non stiamo a guardare queste cose, qua ci sono. C'è quello d'analisi, ad esempio, che serve per le RTT, per la classificazione, c'è il filtro, che più o meno identico. Qua lo spettro lo puoi impostare tu. Cosa? Puoi impostare lo spettro, la larghezza di banda. Credo di sì, però ti consuma più dal punto di vista del processore. Da te non è consigliabile. Qua ti ha dato il mio nominativo perché mi ha riconosciuto tramite il calcolo interno, capito? Ma quindi il coso funziona, con queste connessioni le posso saldare, Gianfranco? Sì, direi di sì. Guarda, volendo, ti posso fare un esempio di Ma hai toccato qualcosa? C'è il sito riavvia per mantenere il dispositivo aggiornato. Tu l'hai messo? No. Evidentemente a casa ci sono degli aggiornamenti che lo dovresti riavviare più tardi. Speriamo che non ho potuto toccare niente, non so se la fa. Ecco qua, via. Dunque, adesso mi sento anche, cioè. L'altro non li saldo, quegli altri due fili soppressi. Magari lasciamo così il provvisorio, tanto non c'è da problemi. No, dico, se per caso devo attivare per rispondere quando sarà, li lascio soppressi adesso o li predisponiamo già pronti? Lascia tutto come per adesso, poi quando ti armate di saldi e fai quello che devi fare. Tutto va. Tutto va avanti, diciamo. Sto cercando un po' di tempo. Ecco, ti manderò una cavolata di file per farti pesante 16K, vediamo un po' cosa ti esce. Dunque, performance. Lo fa decifrare l'orecchio e così via. capito. Certo, c'è una trasmissione criptata, a prescindere la sente, ma non la riesce a capire. Comunque cosa so sia, che sia RTP, che sia SANA, che sia Packet, che sia QSK. Poco fa mi hai fatto vedere la tua portante, diciamo, come mai adesso non la vedo? Perché il packet prevede pacchetti e quindi non... Aspettiamo la connessione, vediamo un po'. Sì che la vedo io qua. Adesso blocco, vedi che quando parlo ci sono delle variazioni. Esce dal net. Ma questa linea verde stai parlando? Guarda, no, non lo so. Se do un colpo di pacca, poi dipende dai sistemi, guarda. PSK, per altre cose, nel RTT probabilmente ti usciranno dei caratteri. A, U, U, I, I, I, U, U, A, A. Capito, non ti fissare sull'analizzatore di spettri. Quello serve per centrare le stazioni. Centrare le stazioni nel senso quando ti trovi l'emissione qua, dove c'è la freccia, sposti questo affare, vedi col mouse e la centri in base alla larghezza che c'è. Sì, ma poco fa ho visto la cascata, quando tu parlavi, cioè mandavi messaggi, c'era la cascata, adesso io non vedo più niente, vedo solo rumore. Guarda, faccio delle interruzioni rapidi, così ti accorgi che la sto vedendo io quando parlo, ecco, adesso blocco, adesso parlo, ti. La parte mia non cambia niente. Ma cosa non cambia niente? Lo vedo io, sei tu che non capisci una mazza. Vedi che ci sono delle righe, lui si aspetta, in questo caso, si aspetta un'emissione in RTT, ma la mia voce mica è RTT, quando parlo io ti sembra una tele scrivente, no. Quindi cosa ti aspetti? Se ti mando una tele scrivente tu vedrai, ti dai il cose, guarda, ti mando... Ah. Ti mando una traccia di segnale di nuovo. È quello che ti sto dicendo, non dico la voce, ma quando mandi un segnale delle informazioni dovrebbe apparire la cascata come prima, o sbaglio? Certo che sì. È quello che voglio vedere, come mai adesso hai bloccato l'emissione di dati? Metti quello di prima che ho visto proprio la cascata, mandavi, stavi scrivendo e mi è apparita la cascata. Mangiare, io devo c'è niente. Ah, fra, se vuoi andare vai, non ti mettere problemi, non ti preoccupare. Se tu metti, ci sentiamo domani mattina, tanto domani c'è brutto tempo, credo che non vado da nessuna parte. Perché sto cercando, ma quando devo non ci sono mai queste cavolo di stazioni. Comunque, almeno funziona, siamo sicuri che funziona, Giafra. Beh, voglio ben sperare. Tutta la fatica che mi ha fatto fare. Ammazza, che se ne scende. Allora, ti puoi spostare un attimino di frequenza. Vai a 10.100, 10.100. C'è una tale scrivente. Deve andare in USB esattamente a 10.100, poi torna qua per dirmi, anzi me ne accorgo dallo spettro se la vedi, fai un attimino a 10.100, quando ti cambio il sistema torni qua, anzi lo metto già qua, il sistema è 50 baud. Prova a andare. Ok, 10.100, scusa un attimo. 10.100 in ascolto. Come hai detto, USB? USB. Devi sentire questo rumore, senti? Il segnale purtroppo è basso. Vediamo se lo senti. Ok. Passa in AM, passa in AM. Ah, scusa, ma probabilmente l'ha già impostata USB, perché ho girato col cambio cosa della 1100 USB è passata in automatico. Sì, è normale, però non la sentivi, vero, perché non l'ho vista. Sì, sentivo, come no? Se dovevi una specie di rumore c'era la cascata. No, ma non mi è apparsa, perché non mi ha dato neanche dati, non ho capito cosa guardi, tu vedi la cascata la vedrai sempre. Anche adesso la vedi, però non io ho visto i tipici segnali che devi vedere, probabilmente non sentivi la stazione. No, Giafra, Santiago 3 era il segnale, non era una cascata come adesso vuota, rumore, c'era proprio una cosa abbastanza larga e poi c'è scritta roba, non so se l'hai scritta tu questa roba. Hai scritto tu, ma stavi lavorando tu o che cos'era? No. Ci faccio io con la frequenza, no, sta un po' più basso. Ecco. Forse riusciamo a fare un fax, sempre in USB. Prova 4569. Vediamo se con la bici da qualcosa. 4569 USB. Sì, dovrei sentire questo rumore. Okay. Sei tornato? Sì. Ci sei già, Fran? Sì, niente. Sì, sentivo basso basso, si sentiva. Sì. Ascolta, nella nostra gamma 7049 S9, non senti questi? 7049 LSB. 7049. Ci sei già, Fran? Sì. Ma qua stavano anche scrivendo, hai visto? Tu vedevi quello che vedevo io? Sì, no, stavo pensando che... Ma mai non riuscivo a decifrare la sera. Santiago 9 era qua il segnale. Sì, però non sono riuscito a impostarti... Basta che posso decifrare. Sì, qua 9-10, qualcosa del genere. Dimmi una cosa, vabbè, se devi andare vai via Gianfra, non ti voglio trattenere. Qual era quella pagina per vedere il TS2000? Mi ha detto, tu mi hai messo, l'ha caricato la pagina, così è. Il manuale? Non il manuale, la radio proprio. Ma tanto non va, vedi, non c'hai la seriale, c'è ancora una seriale lì, che va dal computer al coso. Ah, ci vuole un cavo serio, no? Pensavo che con questa CC2 si potesse vedere. No. Comunque te la sconsiglio per questi sistemi, perché tu puoi essere interferita dimensione, capito? Si compie che l'orbita è bassa. Se la voglio fare semplice, se la voglio complicare. No, no, era soltanto a livello di curiosità vedere la pagina, come agivi col mouse, eccetera. Comunque, sono contento che la questione funziona, vuole soltanto adesso interessati bene le saldature. Aspetta un attimino, no, ma non ho il coso, non c'ho l'antenna, ma cosa vuoi fare con un portatilino? Io c'ho un ICOM. Tanto con 500 mila basta, voglia ci sentiamo. Ma per provarlo su altre bande stai dicendo? No, a farti andare, a te ad ascoltare quelle cose che abbiamo visto da qua, così capisci le impostazioni. No, ho capito, aspetta un attimino. Quello là, solo che io non ho l'antenna esterna, io ho un ICOM, e bene, su che frequenza lavoro? Puoi usare il coso lì, il TS2000, e farlo lavorare in duplex praticamente, perché di là ascolti le HF, e quando mi devi dire qualcosa premi sulla sub, sul ricevitore sub, capito? E lì possiamo comunicare. Vabbè, io direi aspettiamo qualche giorno che mi diano questa benedetta cosa e poi vediamo. Adesso è accesa la ventolina del 2000. Sì, un apparecchio che scalda anche in ricezione, quello ciuccia. Lo fanno tutti. No, è questione di licenza. Puoi ascoltare tranquillamente. TMR è libera come la 27, a meno che non c'hai un'altra antenna, quella che c'ha il discone dovrebbe trasmettere anche il 25, se non sbaglio, cioè da 25 a 800, quindi non dovresti avere problemi. Sì, no, cioè, quello non è proprio un discone, è un altro tipo di antenna, questa qua, quella arriva fino a 1300, perché c'ha una doppia antenna, c'ha un altro coso di accordo, eccetera. Però il problema con cosa, cioè, quello che c'è il PMR io non posso attaccare antenna esterna. Insomma, tu c'hai due antenne, e di queste due antenne puoi usare solo la Mantova nel tentativo molto disperato di ricevere anche bene in HF. No, scusa un attimino, io con questo che sto utilizzando adesso c'è anche le bande quelle che hai nominato tu. Sì, c'è anche quelle lì. Comunque vabbè, già come ho detto, ti do un altro sistema in applicazione e ci sentiamo come secondaria in diretta tramite un sistema dati telefonico. Tu ti devi solo installare un'applicazione CB che si chiama Midland CB Talk. Potrei installare un'applicazione sul telefono. Sono già CB Talk io. E allora ti vieni a fumare. Yeah. simpaticissimo. Questa è qualche cosa. Prima notte escono questi, ma Napolo, l'Indonesia. Via. Sì, no, perfetto, l'Indonesia. Lontano. E in RTT, qualche conta ti cerco. Mi tocco, sono stato il 100.000esimo a averlo, adesso sono arrivato in barriera a 800.000. Ce l'hanno tutto il pianeta da quando l'hanno fatto. Ascolta, vabbè, ci andiamo su un canale di quelli, va bene. Sì, possiamo cederci anche su un canale completamente diverso, che non ci sia nessuno a rompere le scatole. Ma tanto, se si cambia non è che c'è niente, solo che la maggiore importanza è adesso, però dai, domani è ancora più libero, io la mattina sono fatto fino alle... fino alle 10, dovete uscire alle 4 di mattina e rientro alle 10. Ma tu stai lavorando perché già fa? Ancora fa un po'. No, dico, uscire così presto, ma che non vai a funghi. È probabile, saranno funghi un po' strani. Ok, e cosa volevo dire? Quindi allora decido per Civitale. Sì, 40, ok. E in auge, c'è la sua qualche cosa. Ce l'ho, ma io ho parlato anche con un amico, cioè Salvatore, un CB, amico di vecchia data, ci siamo fratelli, si può dire, perché ci sentiamo spesso. Lui in auge ci siamo sentiti tante volte. Io sono Sosso. E a lui, me. Penso che c'è qualcuno che ci ascolta, da ore magari. No, da ore no, e catta. No, sono appena rientrando da casa di Giovanna. Adesso mi sto facendo la cena, poi esco. Verso le 10:15. Sì, anch'io. Ascolta, ti sto agganciando e... vabbè. Sì, ha bloccato tutto quanto, tanto poi dovrà fare l'aggiornamento al computer. Sì, io guardo, tolgo anche l'applicazione. Ok, no vabbè, togli tutto tu, scrivi tu e installa l'aggiornamento e vedi un po'. Sì, è strano questo fatto della pennina, cacchio, non riesce a leggerla. A me lo dici, 32 bit, cavolo, c'è qualche problema. Vabbè, ok, domani mi ha detto che ci sei, di mattina, di sera o di sera o di notte? No, tanto non credo che vado da nessuna parte, tanto è brevissima, domani dai, adesso dopo le 10 ci sentiamo magari. Ok, come al solito, solito canale, solito track. Va bene, me ne vado a mangiare, accidenti, mi sta facendo fare una dieta, ci diamo. Ciao Antonè, ciao Roberto, buona domenica. Domani. Grazie di tutto, ci sentiamo alla giornata, riavvia, sospendi, cosa devo fare, resta il sistema. Apri la finestra, chiama Antonello, lo faccio stare sotto e butti giù il computer, cerca almeno di centrare. Sta seguendo l'arresto, dai, ci avresti l'arrestato bene, mi pare di sì. Ti viene un po' male mi buttare la roba alla finestra dove sono io, perché c'ho il palo sulla scaletta, quindi al limite il computer va direttamente a casa di mia sorella. No, Antonio, se tu che devi andare da Roberto, metterti senza muoverti possibilmente sotto la finestra e lui ti tira quel computer in testa. Ah, va bene, va bene. Se al limite poi mi... chiamo i pompieri, mi butta giù tutta l'attrezzatura che c'ha, non è un problema per quello, faccio mettere sotto quella la tenda, mi recuperare tutto. Com'è il segnale Atone con questa radio? Fotoscala, sì, qua. La radio differenza, non si? No, 5 è perfetta, amplificata. Papaio, ritorniamo sul 10, noi qua ci eravamo spostati con Gianfranco perché stavamo facendo delle prove di cosa, di installazione di programmi. Quindi sul 10 non c'è manco un cane, quindi è in diante. Aspetta, ci siamo spostati, adesso sono le 9. Ok, io vado, ciao. Ciao Gianfranco, domani, buonanotte, ciao ciao. Ciao Gianfranco, ma c'è qualcuno che ha fischiato sotto Gianfranco, chi è? Sparito. Avanti. Chi è questo Midland modificato alla 68 con effetto eco?